Ad alta voce. Tony Servillo legge Il giorno del giudizio di Salvatore Satta. Don Ludovico aveva messo al mondo parecchi figli, come mi pare di aver detto, ed è qui che comincia il mistero. Perché questi figli erano tutti vivi e tutti grandi, e se Don Sebastiano, sposandosi, pareva aver fatto punto e a capo, se nella famiglia essi erano ignorati e non se ne faceva parola, non si poteva cancellarli dalla faccia della terra. Anzi, il silenzio li rendeva più presenti che mai. I figli facevano un gran parlottare tra loro, sentivano che c'era una zona d'ombra nella vita chiara e tersa del padre, ma non venivano a capo di niente e ciascuno doveva portarsi il segreto nella sepoltura. Inutile chiedere a donna Vincenza che dei Sanna, come essa li chiamava, ne sapeva meno di loro. Il fatto noto era questo, che il primo figlio di don Ludovico, lo zio Matteo, a 20 anni, quando gli altri sono poco più che bambini, una mattina era uscito di casa e, arrivato a Monte Longu, là dove si inabissa la strada verso Orosei e il mare, si era voltato verso Nuoro e, facendo una croce nell'aria, aveva detto: «Addio, Nuoro, non mi vedrai mai più». Da quel momento era diventato un fantasma. Non che avesse spirito avventuroso e si fosse messo a correre il mondo. Si diceva che si fosse arruolato nei carabinieri e col tempo fosse stato mandato a Samugheo, un oscuro paese, credo, presso Oristano, dove si era fermato, aveva preso moglie e messo al mondo figli. Là, infatti, certamente abitava, ma il punto è che dal giorno dell'esodo dovevano passare 75 anni, poiché durò fino ai 95 e per 75 anni mantenne la parola. Dovevano morire il padre, la madre, fratelli, nipoti, non si fece mai vivo. Verso la fine della sua vita erano accadute tante cose, tra l'altro le due grandi guerre, la rivoluzione di Russia che si era ripercossa persino in Sardegna. Uno dei figli maggiori di don Sebastiano, Gaetano, già avanti anch'egli negli anni, capitò per caso a Samugheo, miracoli dell'automobile, ed ebbe la curiosità di conoscere il fantomatico zio. Si vide venire avanti un vecchio dalla grande barba, paurosamente somigliante al nonno, che parve accogliere con benevolenza questo primo Sanna della nuova generazione che vedeva. Era morto da poco zio Priamo, il fratello di don Ludovico, e a Gaetano venne la mala idea di commemorarlo. Il vecchio ebbe un lampo negli occhi, già lievemente appannati dalla cataratta. «Gaeta», gli disse, «tu sei venuto a prendermi in giro. Priamo è all'inferno e là aspetta Franceschina, la moglie, che lo raggiunga». Quest'odio, chiuso in un cuore per 70 anni, non trovava corrispondenza che nel silenzio, cioè nel modo più terribile di alimentarlo, perché lo rende inutile. Ma esso aleggiava per la casa, eccitava la fantasia dei figli, gettava nella generazione dei Sanna e quindi nel padre un'ombra di mistero. In tutte le famiglie, se si risale nel passato, si arriva a uno che costituisce un punto oscuro. Ma i morti sono morti e la morte conferisce una specie di legittimità alle persone più ribalde. I vecchi Sanna erano tutti vivi ed erano tutti brava gente e nessuno che si sapesse trovava da ridire sul loro conto. Se un male c'era, era interno, perché vivevano isolati e lontani in quel minimo borgo, l'uno dall'altro più che le stelle tra loro. E poi, quale torto si può aver ricevuto a 20 anni perché si possa rifiutare una patria, un padre, una madre, una casa, infine se stessi? Il mistero si infittiva. a meno che a 20 anni, quando i nuovi Sanna erano poco più che ragazzini, dominati da quell'istinto di povertà di cui il padre dava l'esempio, i vecchi non fossero già occhiuti nemici, consapevoli che il rapporto di fraternità ha il suo modello in Caino e Abele, e già contassero le pietre che un giorno avrebbero dovuto dividersi. Tutto è possibile, ma ci dovevano essere stati nel seguito della vita altri fatti che avevano aggrovigliato quel nodo di vipere, e anche su questi si stendeva una coltre funebre di silenzio. C'era, tanto per cominciare, l'enigma dello zio Goffredo. I ragazzi lo conoscevano perché lo vedevano per la strada di quando in quando. Mai che avesse varcato la soglia della casa, o che non volesse o che ne fosse respinto. Era un uomo lungo, piuttosto forte, e aveva un viso attonito, senza alcuna rispondenza con quello dei vecchi Sanna. Dietro di lui c'era una vicenda opaca di dissesti finanziari che gli aveva completamente estraniato la famiglia, tanto più che aveva avuto prima un periodo di grande floridezza. Pare si fosse dato ai maledetti prodotti della terra sarda, ma di concreto non si sapeva nulla. Don Sebastiano e Don Priamo, l'altro fratello Don Domenico non contava niente, era uno di quei tanti avvocati di provincia che vivono di procedura, semplicemente lo ignoravano. Aveva anche lui nei bei tempi messo al mondo parecchi figli che erano intelligenti e studiosi e avrebbero formato un altro ramo dei Sanna coi figli di Don Sebastiano. Il ramo povero, certamente, ma poi non si sa che cosa riserva la vita. E a uno questi figli gli morivano di tisi, senza che i fratelli ne prendessero nota. I figli di Don Sebastiano accettavano naturalmente tutto questo, perché erano inseriti nella storia e non potevano che essere solidali con la loro storia. Ma la sera, specialmente gli ultimi due, che dormivano nella stessa stanza, parlavano a lungo, a bassa voce, e penetrava in loro il senso arcano della vita, o, ciò che è lo stesso, l'incomprensibile senso del male. A complicare le cose c'era poi Don Priamo, quello che abbiamo incontrato come sindaco di Nuoro per la storica vicenda della pubblica illuminazione, che alcuni stolti consiglieri volevano limitare alle notti in cui non c'era la luna, quello che Don Matteo aveva per conto suo collocato all'inferno. Zio Priamo era l'unico che avesse conservato rapporti con Don Sebastiano, se di rapporti si poteva parlare. Di tutti i fratelli era il solo che avesse tenuto fede alla tradizione. Era nato nella casupola di Santa Maria, nobilitata dalla presenza di Don Ludovico, nella casa di Santa Maria, doveva morire. Aveva visto uscire ad uno gli altri fratelli e li aveva lasciati andare. Egli era rimasto col padre, e il padre vedovo e il figlio scapolo si sostenevano l'uno con l'altro, non con l'amore, ma accomunando le loro due solitudini. Naturalmente curava gli interessi del padre, che erano anche i suoi, e quasi ogni giorno scendeva a cavallo nei poderetti dagli strani nomi che erano pervenuti in famiglia, chissà come, chissà da chi. Ma egli non era come Don Sebastiano, che creava la terra, ne faceva un'impresa. Egli badava al suo, da vero proprietario, e perciò era infinitamente più vicino alla terra di Don Sebastiano. In sostanza, riusciva a non fare nulla senza essere ozioso, e questo gli aveva procurato quella fama di saggio che lo aveva portato per un po' di tempo al comune. Quando, dopo molti anni, si scoperse un'ernia, smise di andare in campagna, ma con questo non mutò la sua vita, continuò a non far nulla, solo che lo fece con maggior impegno di prima. Era un uomo alto, magro, sempre vestito di nero, seppur non era lo stesso vestito che portava da 30 anni, e con la barba diventata lunga e fluente si avviava a ripetere il padre. Nelle stanze buie i due vecchi, poiché anche Don Priamo era ormai avanti negli anni, si incontravano raramente e solo per parlare di interessi. Il figlio dava del lei al padre il che non gli impediva di imporgli la sua volontà quando fosse stato necessario. Così, quella volta che Don Domenico, l'insignificante avvocato, aveva avuto l'idea di sposarsi con la tale, una cosa senza senso, più che una mésalliance, Don Ludovico si sdegnò e disse a Don Priamo: «Io glielo devo dire che non deve farlo». «Lei non gli dirà nulla», aveva risposto Don Priamo. «Non è forse abbastanza grande per capire quello che deve fare?» E fu tutto. C'era in questo una inconsapevole filosofia, o più semplicemente un principio di vita. Ciascuno deve sbagliare da sé. Regola giusta e terribile, che supponeva la impossibilità della comunicazione. Poi fu la svolta. Aveva già raggiunto i 50 anni e l'idea del matrimonio non gli era mai passata per la testa. La donna non entrava nel severo impegno del vivere. Le donne che gli giravano intorno erano massaie o vendemmiatrici o raccoglitrici di olive e come tali le vedeva. In città non aveva relazioni di nessun genere. La sola casa che frequentasse nelle sue rare uscite era quella di Canonico Murtas, un vecchio sacerdote venuto da Olzai, cioè da uno di quei paesi che gravitavano su Nuoro, il quale viveva in una casetta vicino al corso con la decrepita madre e una matura nipote che si chiamava Franceschina. Franceschina era nubile, ma non era quel che si dice una zitella. La zitella è una donna rifiutata dall'amore, e l'amore non aveva avuto a che fare con lei più di quanto non avesse avuto a che fare Don Priamo. Era rimasta così, allo stesso modo come tante altre si erano sposate, con la certezza dello zio prete, della vecchia nonna, di se stessa. Soprattutto di se stessa, perché nel suo tranquillo orizzonte, e forse proprio per la presenza di quel prete in casa, sentiva l'eternità del suo passaggio sulla terra, di ogni passaggio, l'eternità delle piccole cose che si fanno, del preparare il pranzo e la cena, del fare la calza, del conversare sul divano del salottino, con la Madonna e i santi sotto le campane di vetro. E chi è eterno non si sposa. In quell'eternità penetrava quasi ogni giorno da almeno 20 anni Don Priamo. Scendeva all'imbrunire da Santa Maria e andava a sedersi su quel divano, immergendosi in quei silenziosi conversari. Era la sola conoscenza che avesse ed era sempre il benvenuto perché era di buona famiglia e dava, quando ne era richiesto, dei buoni consigli. Tanto lui quanto Canonico Murtas avevano l'uso del tabaccare e si scambiavano le prese dalle tabacchiere di Madreperla. Ora, questo doveva raccontarlo lo stesso Don Priamo 20 anni dopo al nipote più piccolo, una sera d'inverno sul canto del focolare. In uno dei tanti giorni che trascorrevano nella casa di Santa Maria, era accaduto che Don Priamo guardasse il padre che si era addormentato mentre mangiava e si accorgesse che era vecchio. Aveva già passato gli 80. Una cosa gli apparve allora molto chiara, e cioè che il padre poteva morire. E se il padre fosse morto, egli sarebbe rimasto completamente solo, in balia di una domestica, anche lui già così avanti negli anni. Quella solitudine lo spaventò. Allora aveva preso il cappello, che aveva mantenuto la forma che aveva dal cappellaio con una leggera ammaccatura da un lato, e aveva varcato la soglia della casetta del canonico. Un giorno assolutamente come un altro. Il canonico non era ancora tornato e Franceschina lo attendeva seduta sul divano. Don Priamo quella volta non si sedette, ma rivolgendosi a lei le disse: «Sono venuto per chiederle se vuol venire a casa mia a far da padrona». Poi, senza lasciarle il tempo di riaversi: «Una cosa le aggiungo, non mi risponda subito. E se mi dirà di no, non pensi che me ne avrò a male. Resteremo amici come prima». E se ne andò a casa, senza neppure salutare. Franceschina doveva aver risposto di sì, perché ora erano in tre nella casa di Santa Maria. Nulla era cambiato, né in lei né fuori di lei, solo che chiamava Priamo quell'uomo che per 20 anni aveva considerato con soggezione e l'aveva fatta diventare donna Franceschina, un titolo un po' in contrasto col dialetto dei paesi che non era mai riuscita a sostituire con la severa parlata di Nuoro. Nessun matrimonio era stato più felice, perché Franceschina non aveva fatto che estendere al rapporto coniugale la sua certezza. Figli non erano venuti, ma questo non aveva nessuna importanza. Nell'uno nell'altra sentivano il bisogno di continuarsi, perché non avevano il senso della propria incompletezza. Per i beni ci sarebbe stato tempo a pensarci, e anche quelli in fondo erano legati alla propria esistenza, di cui erano tranquillamente convinti. Il cambiamento che si era introdotto nella vita di Don Priamo era che, all'imbrunire, quando egli doveva tornare a cavallo dalla campagna, Franceschina si metteva alla finestra incorniciata di bianco, grande come una feritoia, e aspettava il marito. Don Priamo la vedeva di lontano e l'ombra di un sorriso illuminava i suoi occhi foschi, tagliati a mandorla. I nuoresi se ne erano accorti e uscivano dai casolari per assistere alla scena. Il sorriso di Don Priamo non era ridicolo. Era il segno dell'infinito che entrava in quella finita società coniugale, fatta di piccole opere quotidiane, di modesti adempimenti, così perfetta che non aveva neppure bisogno di Dio. Le campane della chiesa incombente invano battevano l'ora che passa. Nella casa di Priamo e di Franceschina il tempo non passava affatto. La sola novità era che Don Priamo, sposando Franceschina, aveva scoperto lo spazio, perché gli era toccato andare per la prima volta fuori di Nuoro, a Olzai, per presentarsi ai parenti della moglie. 20 chilometri a cavallo, un'impresa che non si sarebbe ripetuta mai più. Franceschina aveva qualche piccola cosa al suo paese, ma egli l'avrebbe scrupolosamente amministrata senza bisogno di muoversi. Gli affittuari sarebbero venuti loro al momento giusto, con i danari dell'affitto e con i formaggi nella bisaccia che sapevano di mirto e di menta. Con l'occasione anch'essi avrebbero chiesto a Don Priamo dei buoni consigli. E questo Don Priamo, il fratello Matteo, l'aveva già collocato nell'inferno, in attesa che Franceschina lo raggiungesse. Sono stato di nascosto a visitare il cimitero di Nuoro. Sono arrivato di buon mattino per non vedere e non essere veduto. Sono sceso a Monte Longo, là dove Nuoro allora finiva e cominciava, all'orlo di San Pietro, e mi sono avviato per le piccole strade della mia lontanissima infanzia. Ne rimangono ancora le tracce, ad onta degli sforzi delle nuove amministrazioni, nelle casette basse, con qualche resto polveroso di pergolato, qualche patio disadorno. Hanno dato i nomi alle vie, sono scritti in azzurro su targhe di ceramica bianca, inquadrate da un filo sottile anch'esso azzurro, e sono nomi di oscure glorie nei quali deve aver messo lo zampino canonico Fele. Sono sicuro che Don Priamo le avrebbe disapprovate. «E che bisogno c'è di targhe?» avrebbe detto memorabilmente in consiglio, «quando tutti sanno dove si deve andare». E avrebbe avuto ragione. Tant'è vero che la maggior parte, incrinate e sbrecciate, hanno servito da tiro a segno ai ragazzi che le hanno rese illeggibili. Il rivolo di cielo sopra le strade è solcato dai fili della luce elettrica, sempre in disordine. La luce elettrica era venuta a Nuoro incredibilmente presto. Qualcuno che era tornato dal continente Parlava di queste città che si illuminavano improvvisamente, di queste lampade che si accendevano da sole, e non una qui e una là, ma tutte insieme, come dire, da San Pietro a Seona, in una volta. Ma in fondo non erano che parole. Maestro Ferdinando, che era maestro perché era muratore, ma si era assunto il compito di accendere ogni sera i fanali a petrolio, continuava il suo lavoro. Era un uomo lungo e magro e vestiva il costume, per quanto fosse, a causa del suo mestiere, un poco inurbato. I fanali erano come urne di ferro, con un lungo braccio piantato negli spigoli delle case, e avevano una loro massiccia eleganza. Maestro Ferdinando, quando spuntava la prima stella, afferrava l'altissima scala che di giorno restava appoggiata per il lungo al muro rosso della sua casetta e, portandola a spallarma, iniziava il suo giro. I ragazzi gli correvano appresso, compresi di quella pubblica e solenne cerimonia, e non solo i figli scalzi dei poveri, ma i figli dei ricchi con le loro scarpe ferrate di chiodi per salvare la suola. Maestro Ferdinando, senza guardarsi intorno, issava la scala poggiandola sul braccio del fanale, apriva lo sportellino di vetro e strofinava il fiammifero di legno sul ferro, lasciandolo poi cadere per terra. Era quello che i ragazzi attendevano, perché si gettavano vociando sulla inutile preda di cui ciascuno faceva raccolta. Chi ne raccoglieva più di tutti, perché era il più svelto, era l'ultimo figlio di Don Sebastiano, che li portava a Donna Vincenza perché glieli custodisse. Donna Vincenza custodiva i fiammiferi spenti del suo bambino nella grande credenza incastrata nel muro, di cui teneva le chiavi nel mazzetto attaccato alla cintola, accanto agli spiccioli che le lasciava Don Sebastiano. Ella sapeva, nella sua ignoranza, quel che Don Sebastiano, con tutti i suoi studi, non avrebbe capito, e cioè che dietro quelle cose morte c'era una vita immensa, uno sconfinato mondo d'amore, assai più che dietro i giocattoli, se mai in casa di Don Sebastiano si fosse potuto concepire un giocattolo. C'era l'idea di una terra, della terra per noi arida e avara, piena di doni meravigliosi. C'era la fantasia del gratuito che ha mosso il creatore alla sua creazione, la gioia di sentirsi partecipe di questa creazione e di questo dono. Il senso dell'utile e dell'inutile è estraneo a Dio e ai bambini. Esso è l'elemento diabolico della vita, e può darsi che Don Sebastiano lo sentisse con quel suo rispondere a chi diceva che era ricco, che ricco è il cimitero. Ma questo non era un conoscere la grazia, era anzi una specie di maledizione. La grazia era rimasta nell'animo di Donna Vincenza perché Don Sebastiano, inteso all'utile e all'inutile, l'aveva confinata nei suoi ricordi di fanciulla, e forse anche per lei questi fiammiferi spenti cadevano simbolicamente dal cielo, e sia pure il cielo di un rugginoso lampione. Ma il fatto è che i lampioni a petrolio e Maestro Ferdinando e i fiammiferi e i sogni avevano le ore contate. Don Priamo e Donna Franceschina illuminavano ancora la loro cena con la fiamma inquieta della stearica, e ancora le lucerne di rame riempivano d'ombra e di luce le stanze dei servi. Ma Pasqualino sapeva quel che si faceva quando tramava col continente per spegnere con un potente soffio tutte quelle fiammelle preistoriche. Ricco di un'immensa ricchezza, possedeva salti interi in tutti i paesi del circondario, alto, bello, Don Pasqualino Pigga aveva la vocazione dell'industria, quasi unico fra i nuoresi, che l'industria non sapeva neppure che cosa fosse. Al limite di Seuna aveva impiantato un mulino a vapore con annesso un pastificio che riempiva di battiti come di un grande cuore tutta la contrada. I palmenti lavoravano giorno e notte, e tra il velo finissimo di farina brancolavano le ombre dei figli di Don Pasqualino, che lavoravano come gli operai, più degli operai, con la dedizione tumultuosa che sempre hanno i signori quando scoprono il lavoro. A mantenere la tradizione restavano in casa le donne. La vecchia donna Rina, la madre di Don Pasqualino, che era come un vessillo. Basti dire che un pastore di Nuoro, che era stato trasportato a Roma e aveva fatto nuove esperienze, ne era tornato dicendo: altro che donna Rina, quelle bagasce del continente. La moglie don Angelica e le sue tre splendide figlie, una più bella dell'altra, aureolate dell'antica e nuova ricchezza. I sacchi di grano si allineavano nell'immensa sala ed era cosa buona e giusta, solo che fino a ieri il grano si era macinato a Nuoro nella mole, come quella di zia Isporzedda, una tributaria di donna Vincenza, con l'asinello che girava in perpetuo in un piccolo antro senza finestre. Le donne portavano, reggendoli sul capo, i quarti di grano nelle corbule ricolme orlate di rosso, e questa non era soltanto una faccenda come un'altra, era anche un atto di carità. Il mulino di don Pasqualino aveva d'un colpo fermato tutti gli asinelli e spenta la carità. E così ora egli si accingeva a spegnere con un soffio tutte le fiammelle di Nuoro, a distruggere il rito dell'accensione del lume nella casa del povero e del ricco, a cambiare le facce delle persone illuminandole di una luce diversa. Era il suo destino. Era il destino. Le vie del borgo, ancora tutte acciottolate fuori del lungo corso, si riempirono di fili che parevano un ornamento. Don Pasqualino era arrivato a portare a Nuoro, chissà di dove, una strana scala fatta di tante scale che si infilavano l'una nell'altra e la issava ad altezze inverosimili. Maestro Ferdinando continuava a uscire incredulo col suo povero arnese, ma i ragazzi non lo seguivano più.